24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci alle 7:20 minuti, siamo qui in diretta su Radio 24 fino alle 9. Con Carmelo Lauricella in regia, Diego Rovelli in redazione e siamo su Twitter, @24mattino o @AlinoMilan che sono io, siamo su Facebook 24 mattino, ci potete ascoltare sul sito radio24.it. Insomma, dovunque, oggi parliamo di politica e sostegno al governo Monti, è davvero tempo scaduto? Visto che si guarda questo Consiglio europeo per molti come l'ultimo momento per Mario Monti, o riesce a fare la voce grossa con Angela Merkel, oppure alcuni sono pronti a dire il suo tempo è scaduto. Ne parleremo dunque di politica. Avremo ospite anche alle 8:20, tra un'ora esatta, l'ex sindaco di Bari, l'onorevole Di Cagno a Brescia. Perché sapete quanto ha pagato di IMU come primo acconto? 80.000 euro. Io non ci volevo credere, glielo chiederemo. Credo che abbia 70 case e 100 terreni, più o meno. E vabbè, quindi il conto è quello. Vabbè, ma ne parleremo più avanti. Ora andiamo a vedere i giornali in edicola. In questo martedì 26 giugno i titoli sono tutti declinati al Nein, all'ennesimo no di Angela Merkel agli Eurobond. Merkel gela i listini sugli Eurobond. Il Sole 24 Ore così apre in prima pagina. Il Corriere della Sera, Italia sotto pressione sui mercati. Per Repubblica, Eurobond, la Merkel gela le borse. La Stampa, Merkel no agli Eurobond, le borse vanno a picco. Il Giornale, la Merkel ci uccide. Il Fatto Quotidiano, Italia-Germania, l'ultima partita. Qua bisognerebbe aprire un capitolo su gli estenuanti e fastidiosissimi titoli che ci sono da giorni, sulle metafore che prendono spunto dalla semifinale di calcio per fare dei titoli sui giornali. Una roba insopportabile che da qui a giovedì ci porteremo dietro tutti i giorni. Merkel affonda le borse per il Messaggero. Crauti amari per i crucchi, così Libero. L'unità e Europa, Monti si gioca tutto. E poi Avvenire, i Nein gonfiano la crisi, ovviamente i no di Angela Merkel. Insomma, questi un po' i titoli che trovate qua e là. Io voglio subito andare a raccontarvi alcune storie. La prima la racconta Sergio Rizzo sul Corriere della Sera e si concentra sulla SIAE, la grande famiglia dei dipendenti SIAE, 4 su 10 legati da parentela. Stipendio da 64.000 euro, super benefit, è la società degli autori, voluta da scrittori, musicisti, editori, autori per promuovere e salvaguardare la tutela del diritto d'autore. Oggi si concentra su questa società Sergio Rizzo, a pagina 27 del Corriere della Sera. Per far sentire i propri dipendenti come in famiglia, la SIAE non ha rivali. Pensa anche al bucato. Chi va in missione, pensate, può far lavare e stirare camicie e mutande a spese dell'azienda. 10,91 euro per indennità di lavanderia quotidiana che scatta in busta paga dopo il quarto giorno passato fuori sede. Quanti lo ritengono un privilegio anacronistico non sanno che la società degli autori ed editori è tecnicamente un gruppo familiare al 42%, nel senso che ben 527 dei 1257 assunti a tempo indeterminato, vale a dire appunto il 42%, vanta legami di famiglia o di conoscenza, figli, nipoti, mariti, mogli di dipendenti ed ex dipendenti, ma anche congiunti di mandatari, di sindacalisti e perfino di soci. I nomi non dicono nulla, scrive Rizzo, ciò che importa è che in questo clan familiare gigantesco finora tutto sia filato liscio senza bisogno di mettere nulla per iscritto. E infatti alla SIAE non esiste nemmeno un contratto di lavoro vero e proprio. I rapporti tra l'azienda e i dipendenti, come hanno toccato con mano il commissario Rondi e i suoi due vice, sono regolati da microaccordi che hanno determinato condizioni senza alcun paragone in realtà aziendali di questo paese. Cominciamo dallo stipendio, 64.000 euro in media per i dipendenti, 158.000 per i dirigenti. E via così, c'è anche l'indennità di penna. Che è l'indennità? Non è l'alpino, la penna del nostro alpino Peter Bescapè in vacanza, la penna nera, quella è una cosa seria. è una somma mensile da un minimo di 53 a un massimo di 159 euro riconosciuta a tutto il personale per il passaggio dalla penna al computer. Ebbene sì, cioè io ho in mano una penna tra l'altro in questo momento, perché sottolineo i giornali con la penna quando faccio la rassegna stampa, e quindi forse non ne ho diritto, però uso anche il computer di là, ve lo assicuro, uso PC e penna, quindi forse avrò diritto a una semi-indennità di penna a questo punto. Comunque, insomma, la grande famiglia dei dipendenti si ha, e Sergio Rizzo che parla dei rapporti di parentela. C'è da dire che però Sergio Rizzo, almeno dal sito Dago Spia, ripreso oggi dal giornale, proprio su una questione di parentela è stato pizzicato. Perché sul giornale, a pagina 4, Rizzo, l'anticasta scivola, la sorella è consulente di Catricalà. Cioè, la sorella di Sergio Rizzo ha fatto notare Dago Spia, Raffaella Rizzo, è stata chiamata a Palazzo Chigi tra gli esperti come consulente del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, a raccontare l'intreccio parentale Dago Spia, che prendendo spunto da un articolo del Fatto Quotidiano che fa le pulce ai collaboratori del sottosegretario, scrive appunto che c'è anche Raffaella Rizzo. Chi è se non la sorella di Sergio Rizzo? Sì, lui, lo sterminatore di caste e cricche. Vabbè, quindi sul giornale, diciamo, chi di parentela ferisce, di parentela perisce, no? Si potrebbe dire così. A proposito di intrecci, sprechi, non sprechi, denunce, la notizia sì è questa. Non so se poi ieri non sono riuscito ad ascoltare la Zanzara, ma credo che sia intervenuto perché lo stavano cercando. L'ex sindaco di Palermo Cammarata, colui che secondo molti detrattori ha lasciato il comune di Palermo allo sfascio economico, lui dice non c'entro io, lo sfascio economico per la verità è abbastanza accertato, ma lui dice non è colpa mia. Che si può fare nei confronti di un sindaco che secondo appunto molti ha lasciato lo sfascio finanziario un comune? L'ex sindaco spendaccione chiamato a tagliare i costi di Palazzo Madama. Ebbene sì, è stato chiamato al Senato come consulente, pensate, come consulente per razionalizzare la spesa e tagliare i costi a Palazzo Madama. Diego Cammarata, qualcuno a Palermo, scrive Laura Anello a pagina 8 della Stampa che racconta questa storia, qualcuno a Palermo l'ha presa come una battuta, Cammarata sarà un omonimo, e invece no, è proprio lui. L'ex sindaco, costretto a dimettersi a gennaio scorso sotto il peso di un'amministrazione sull'orlo del fallimento, trascinata verso il rosso dal disastro di aziende controllate dal comune, dai rifiuti alle manutenzioni, che ti fa? Cammarata viene nominato consulente del Senato. E consulente per cosa? Per i tagli alla spesa degli enti locali. come si fa a non ridere quando si raccontano queste cose che avvengono nel nostro amatissimo paese, cari italiani? Lui, l'ex sindaco, non fa una piega. Nessun dissesto finanziario, nessun commissariamento riguardano la mia gestione. La verità è che siamo alle solite. Siccome di me non si può dire che sono un corrotto o un mafioso, ci si aggrappa a cose ridicole. Che poi le cose ridicole, racconta Laura Anello, sono, l'AMIA, l'azienda dei rifiuti, che aspetta giorni la pronuncia del fallimento, in 10 anni ha perso 850 milioni di euro, la GESIP, carrozzone di precari che ha finito i soldi dell'ennesima proroga e non sa più come foraggiarsi, o il commissario straordinario nominato dopo le dimissioni di Cammarata che ha dovuto varare un bilancio lacrime e sangue. Eppure adesso Cammarata è a Palazzo Madama e il Senato vuole avvalersi della sua collaborazione per i tagli agli enti locali. Fermiamoci qua perché sennò veramente non, dopo vi faccio arrabbiare tanto, mi scrivete che andate a lavorare sereni, tranquilli e pensate alle vostre cose di tutti i giorni. 5 minuti di pubblicità. Eccoci qua, situazione del Consiglio Europeo. La situazione del Consiglio Europeo di questa settimana, ieri c'è stato un discorso abbastanza preoccupato di Angela Merkel, il cancelliere tedesco, che ha letteralmente gelato le borse. Che cosa ha detto la Merkel? Titolo del Sole 24 Ore, pagina 2: Merkel frena sul debito comune europeo. Beh, ha bocciato intanto gli euro bond. A meno di 3 giorni dal vertice, racconta Alessandro Merli, Angela Merkel ha irrigidito ulteriormente la sua opposizione agli eurobond, definiti economicamente sbagliati, controproducenti, e poi ha detto: quando penso al vertice mi preoccupano tutte queste idee di mettere in comune il debito e troppe poche idee per il controllo della finanza degli stati dell'eurozona. Dovrebbe esserci un equilibrio tra garanzie reciproche e controllo. Insomma, questo gelo sul vertice, sul Consiglio europeo, nel quale secondo molti ci si gioca proprio la tenuta dell'eurozona, ha gelato ovviamente anche i listini europei, gelato le borse e soprattutto ha posto una seria, come dire, spada di Damocle concreta su questo Consiglio europeo, anche perché la situazione tra l'altro è questa: si arriva a questo Consiglio europeo con anche Cipro che chiede aiuti. E lo trovate i dettagli a pagina 4 del Sole 24 Ore con Vittorio D'Arold. Cioè, dopo Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna, il quinto paese, Cipro, a ricorrere alla procedura di salvataggio per la Commissione europea, che la Commissione peraltro si ostina eufemisticamente a chiamare assistenza. L'aiuto, come per la Spagna, riguarderà solo il settore finanziario. Tra i 2 e i 4 miliardi di euro, queste sono le richieste da parte di Cipro per aiutare le proprie banche nazionali. E come si arriva? Si arriva anche in una situazione, guardate, se lo stato di salute di un paese si deve giudicare anche dalle sventure capitate da 2 leader della Grecia, beh, sappiate che il premier Samaras, appena nominato, appena formato il governo, è stato operato d'urgenza alla retina e il medico gli ha vietato anche di andare a Bruxelles, qualsiasi tipo di spostamento. Quindi il premier greco non sarà al Consiglio europeo. Già questo, voglio dire, è un qualcosa che simbolicamente è significativo. Ma non solo, il suo ministro delle finanze, appena nominato, è collassato, ha seri problemi di salute e ha dovuto rimettersi nel giro di 24 ore. Insomma, quindi Atene senza ministro, titola per esempio il Corriere della Sera, pagina 6, Cipro invoca invece il Fondo Salva Stati, insomma, senza ministro delle finanze e senza anche il premier che per questa operazione urgente non potrà andare a Bruxelles. Questo è lo stato dell'arte per quel che riguarda Atene. In questa situazione segnalo a pagina 2 del Corriere della Sera, pagina 2-3, l'intervista a Wolfgang Munchau, che è l'editorialista e condirettore del Financial Times, il quale dice: solo Mario Monti è l'unico leader che può spezzare un po' questo rigore di Angela Merkel e cercare di riportarla su più miti consigli. Dice Munchau in questa intervista: cari colleghi, dovrebbe dire Mario Monti, abbiamo da compiere una scelta. Oggi o salviamo l'euro e costruiamo le fondamenta di una futura unione politica, oppure ci tiriamo indietro. Noi tutti sappiamo cosa occorre fare. Abbiamo bisogno dell'unione bancaria per la Spagna, dell'unione fiscale per l'Italia, dell'unione politica per la Germania. Se dovessimo fallire, non vi assicuro che io possa ancora essere parte di questo gruppo e il mio paese parte di questo progetto. Secondo Munchau dovrebbe essere questo che Mario Monti dice in faccia ad Angela Merkel, perché Mario Monti, ribadisce il condirettore del Financial Times, è un insider dell'Europa, è l'ultimo e principale degli insider europei e la Merkel e gli altri leader lo sanno e hanno fiducia nel vostro premier. Questo lo trovate nell'intervista di Fabio Cavalera, pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Insomma, un Monti che viene accreditato da molti come la persona che potrebbe rompere questa intransigenza della Merkel ribadita ieri. Certo, ma Mario Monti come arriva politicamente a questo Consiglio europeo? Forte di una maggioranza parlamentare stabile oppure debole? E la risposta è chiaramente debole. Tanto che ieri Mario Monti è andato al Quirinale e qui bisogna leggere 2 articoli molto, molto interessanti. Il primo è il retroscena che trovate a pagina 3 di Repubblica, per la verità inizia in prima pagina, e il titolo è questo: lo stop del Quirinale al voto anticipato. Carmelo Lo Papa e Umberto Rosso raccontano che ieri Monti ha avuto le rassicurazioni da parte di Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, sul fatto non ci sarà, il Quirinale si metterà di traverso e impedirà in tutti i modi la possibilità di un voto anticipato che è richiesto invece da alcune fazioni politiche, alcuni per esempio quelli che vengono definiti i falchi del Popolo della Libertà. Per esempio abbiamo ospite alle 8.30 l'onorevole Crosetto, identificato come uno di quelli che spinge per il voto. Lo stop del Quirinale al voto anticipato, scrivono Lo Papa e Rosso, se c'è un rischio elezioni a ottobre, se Berlusconi davvero punta a staccare la spina, si troverà la strada sbarrata dal Quirinale. Quando Monti lascia il Colle, dove ha pranzato con Napolitano sul fronte interno, si sente meglio, alleggerito. Le rassicurazioni del capo dello Stato, che di fronte a spread ancora minaccioso, borse a picco e crisi sempre acuta, gli ribadisce che le elezioni anticipate sarebbero un pericoloso salto nel buio, tranquillizzano il Premier, che così può concentrarsi interamente sul fronte esterno, l'appuntamento decisivo a Bruxelles a cui arriva con un mandato preciso del Presidente della Repubblica, che è questo: determinazione massima sugli interventi per la ripresa e la crescita, perché mi aspetto una svolta vera da questo Consiglio europeo. Questo avrebbe detto Napolitano ieri a Monti. E dunque, secondo Repubblica, rischio crisi, Monti a consulto al Quirinale, Napolitano dice no a elezioni anticipate, i timori per gli strappi di Berlusconi, i movimenti di Berlusconi anche all'interno del partito, potrebbe addirittura scattare un piano per isolare il cavaliere, che oggi tra l'altro sarà a colloquio con il capo del governo Monti. È questo il tema che Monti avrebbe posto sul tavolo con Napolitano. Ci sono minacce serie di staccare la spina al governo, di far cadere questo esecutivo. E di fronte alla domanda più gettonata del momento, quale che sia la risposta, la rete del Quirinale è già stata predisposta, racconta Repubblica. La data per chiamare gli italiani alle urne resta quella fissata, primavera 2013, scadenza naturale. Quindi la lettura di Repubblica è questa. La lettura invece di Giovanni Palombo sul Secolo XIX, pagina 3, è un po' diversa. Monti a Napolitano: il governo non regge. Il Premier chiede al Quirinale un intervento energico sui partiti, Napolitano, che avrebbe un po' rassicurato, quindi un po' più smussata questa sicurezza sul Secolo XIX, avrebbe anche espresso qualche timore e qualche delusione a Monti per quel che riguarda il decreto sviluppo, le misure sullo sviluppo. In ogni caso, insomma, è un Monti che va al Consiglio europeo non fortissimo e certo di un mandato parlamentare che può contare su una granitica maggioranza, perché i partiti sono un po' alle prese con mal di pancia interni. I partiti, per esempio Berlusconi, che oggi è atteso da una direzione decisiva, racconta Libero, una direzione del partito. Berlusconi è definito scocciato coi colonnelli. Oggi, racconta Salvatore Dama, succede tutto. Silvio Berlusconi affronterà i dirigenti del PDL rivelando forse le sue reali intenzioni, cioè mi candido, non mi candido, mi rimetto in campo in prima persona, ci vogliono le liste civiche. Ed è un Berlusconi che è definito scocciato perché di fronte appunto alla sua idea ritorno scendo in campo nuovamente, molti colonnelli hanno detto ma insomma boh, forse non è il caso, forse devi fare l'allenatore, forse devi fare il padre fondatore, forse devi fare il consigliere, che è un modo, come dire, gentile per dire togliti di mezzo, insomma non è più il tuo tempo. Sta di fatto che, racconta sempre Libero, evidentemente Berlusconi è anche un po' scocciato da questa situazione. Franco Bechis racconta: si è fatto il nuraghe. Ti sei ammattito, Milan, no? Che stai raccontando? No, invece i segreti del bilancio di Idra Immobiliare spulciati da Franco Bechis a Villa Certosa, vale a dire la residenza in Sardegna, l'ex premier Berlusconi ha trasformato una cabina elettrica in una tipica costruzione antica isolana per adibire il tutto agli spettacoli. Il nuraghe, costo 5 milioni e 600 mila euro, Che sono stati fatti per un nuraghe, appunto, per trasformare questa cabina elettrica in un nuraghe e quattro appartamentini, 5 milioni e 600 mila euro, quasi il costo di una villa bis da quelle parti, racconta Franco Becchi. Insomma, un Berlusconi che si è dovuto tirare sul morale così. E il PD invece si interroga sulla proposta di Casini lanciata ieri. L'alleanza PD-UDC dopo il traffico. Allora, ieri l'intervista di Casini al Corriere della Sera con la proposta di un'unione dei moderati, PD-UDC, e quindi all'interno del Partito Democratico ci si interroga su questo. Vi segnalo l'intervista che Massimo D'Alema ha rilasciato all'Unità. Pagina 3, Simone Collini, primarie, prima il progetto, un asse forte per il dopo Monti. Alla domanda sulla proposta di Casini dell'Unione, appunto, progressisti moderati, risponde così D'Alema: è una dichiarazione importante, ma in ogni caso bisogna partire dal progetto per il paese, misurare su di esso le convergenze. È chiaro che adesso si delinea la possibilità di costruire una maggioranza intorno al PD, cioè quell'asse tra progressisti e moderati necessario per dare stabilità all'unica prospettiva realistica per il paese. Perché al di là dei meriti di Monti, anche i cosiddetti mercati si interrogano sul futuro dell'Italia e quando vedono nei sondaggi che il secondo partito è Grillo, si chiedono con preoccupazione quali impegni l'Italia è davvero in grado di assumere. Quindi dobbiamo rendere evidente il progetto e al tempo stesso l'asse politico che può sostenerlo. Questa esigenza viene prima delle primarie. Risponde poi così a Renzi, che si è detto convinto di avere la maggioranza. Io non credo, risponde D'Alema, soprattutto non credo che abbia la maggioranza tra gli iscritti e gli elettori del nostro partito. Frecciatina, questa, no? A chi dice che Renzi guarda a destra. E poi sempre su Renzi, che l'ha citata tra quelli che non andrebbero ricandidati in Parlamento. Non è una questione importante, dice D'Alema, nel senso che si può far politica e servire il paese in molti modi, anche fuori dal Parlamento. La regola citata stabilisce che c'è un principio generale rispetto al quale possono esserci deroghe motivate. Questa è la regola, non se ne può leggere soltanto una metà. Detto questo, al momento opportuno il PD farà le sue valutazioni. Non sono una persona che ha dimostrato attaccamento alle poltrone. Così Massimo D'Alema, e non ridete mentre andate a lavorare. Primarie, prima il progetto, un asse forte per il dopo Monti, così il titolo dell'intervista che trovate per intero a pagina 3. Beh, su Casini è molto caustico Riccardo Barenghi, Iena, sulla Stampa, pagina 3, Casini, dopo la sua proposta: comprereste un'alleanza usata da quest'uomo? È ritornata in auge la frase contro Nixon. C'è poi la vicenda Lusi, Rutelli, con Rutelli che scrive, carta e penna, prende e scrive al Giornale, che ieri aveva detto con Vittorio Feltri non è possibile che i vertici non sapessero. Rutelli ancora respinge tutte le accuse e chiude così: chi è Lusi è un ladro, confesso, un traditore di chi ha avuto fiducia in lui. Certo, abbiamo fatto l'errore di portarcelo come tesoriere. Per questo latrocinio subito io per primo sto pagando un prezzo assai doloroso. La risposta di Vittorio Feltri alla lettera pubblicata in prima pagina del Giornale è di una riga: caro Rutelli, anche a me è capitato di essere vittima dei ladri, ma ti giuro che non li avevo invitati io a casa. Ecco, questa è la risposta di Vittorio Feltri a Rutelli. Intanto zitti zitti, mentre la politica si interroga a sostenere o no Mario Monti, eccetera, è saltato ieri un emendamento, tra l'altro l'aveva proposto proprio Crosetto, che sarà nostro ospite alle 8:30, è saltato un emendamento che voleva porre un tetto massimo alle pensioni degli alti dirigenti pubblici. Il tetto massimo fissato era 6.000 euro, che, per dirci, una bella pensione, meritata, giusto? Tetto massimo 6.000 euro. Il governo ha fatto saltare questo emendamento. Dal decreto sulla spending review è saltato il tetto alle pensioni. L'emendamento, racconta tutto Luca Cifoni sul Messaggero a pagina 5. sui trattamenti previdenziali degli altri dirigenti pubblici a riposo, il governo ha dato parere contrario, ha detto lo metteremo in un altro provvedimento. Il dato di fatto che è questo: il governo che ha fatto una bella riforma delle pensioni, bella sostanziosa, bella dura, e quindi guardate a casa il vostro cedolino della pensione, se siete pensionati andate a vedere che cosa vi rimane, sappiate che è stato invece bocciato l'emendamento che voleva porre un tetto a 6.000 euro per gli altri dirigenti pubblici a riposo, ma verrà messo, così assicura il governo, in un altro provvedimento. Per la cronaca vi voglio segnalare quello che molti giornali si concentrano su, un fatto davvero clamoroso e increscioso avvenuto nei confronti della madre di Federico Aldrovandi. Forse ricordate questo caso: Federico Aldrovandi era un ragazzo che fu fermato, e durante un fermo di polizia molto energico e violento, così almeno ha accertato evidentemente la sentenza che ha condannato in via definitiva i poliziotti che hanno arrestato e che avevano fermato Federico Aldrovandi. Federico Aldrovandi è morto in quella situazione. La madre ha portato avanti una battaglia, è stata anche nostra ospite in passato. C'è stata la scorsa settimana la sentenza definitiva di cassazione, di condanna di questi quattro poliziotti. La cosa incresciosa è questa, che su un sito Facebook, il sito Prima Difesa, è un gruppo che difende, la cui ragione sociale è quella di offrire una tutela gratuita ad esponenti delle forze dell'ordine che si trovano in situazioni difficili, sono comparsi degli insulti molto, molto duri nei confronti della madre di Federico, e uno degli insulti più duri è venuto da uno dei poliziotti che è stato condannato in via definitiva. Aldrovandi, l'ultimo sfregio, insulti nel sito degli agenti. C'è anche la firma di uno dei condannati, minaccia alla madre. I tenori dei post su Facebook sono questi: avete sentito la mamma di Aldrovandi, fermate questo scempio, vuole che i quattro poliziotti vadano in carcere, ma soprattutto che faccia, ve lo risparmio, aveva sui TG, falsa, ipocrita, spero che i soldi che ha avuto ingiustamente possa non goderseli come vorrebbe. Questo è la persona che è stata condannata, che scrive questo, Paolo Forlani, uno dei quattro condannati. Adesso non sto più zitto, dico quello che penso e scarico la rabbia per 7 anni di ingiustizie. Ha definito appunto cucciolo di maiale, credo, ha infangato così. Un anonimo invece che si nasconde su questo sito Facebook, Federico Aldrovandi, e la madre ovviamente reagisce, è incredibile, anche su Repubblica, Aldrovandi su Facebook insulti alla madre, e anche sull'Unità è un cucciolo di maiale, l'ultima offesa da Aldrovandi, c'è la mamma Patrizia Moretti che dice sono dei mostri, quelle frasi per me sono uno strazio senza fine, non devono rimanere in polizia. Vabbè, ci fermiamo con questa notizia di cronaca? Sì, diamo la linea al giornale radio. Mattino. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, alle 8:19 minuti. Oggi dobbiamo andare un pochino di corsa perché c'è un aereo che sta partendo e credo che sia seduto su quell'aereo in attesa del decollo il mio ospite, l'onorevole Simeone Di Cagno a Brescia. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Del Popolo della Libertà, ex sindaco di Bari. Quanti minuti abbiamo? Le stanno già facendo cenno? Niente, no, non ancora. Siamo seduti, ma tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Senta, allora, intanto la prima domanda è questa. Lei in Parlamento ha votato per la reintroduzione dell'IMU, sì o no? No, ho votato solo la fiducia, non il provvedimento. Beh, la fiducia, nel senso, ha votato la fiducia? Sì, però ha votato per ordini di partito. Anche perché, diciamo, questo dovevamo dare tutti una mano in questo senso, però il provvedimento era certamente in controtendenza rispetto a quelle che erano, così, il mandato che noi avevamo avuto dall'elettorato. Quindi lei è contrario all'IMU, per carità, non anche per questioni personali. Svegliamo questa cifra che io ho letto sul Fatto Quotidiano, sono sobbalzato sulla sedia. Primo acconto che lei ha pagato di IMU, mi dica se è vero, 80.000 euro. Circa 80.000 euro. 80.000 euro. Cioè, il problema è proprio questo, ma vede, io non vorrei farlo soltanto su un fatto personale, ma direi che questa tassa va a intaccare fortemente tutta una situazione. Cioè, io sono convinto che gli italiani sarebbero anche disposti a fare un sacrificio, che però credo che non si possa protrarre poi per molti anni, perché si andrebbe a avere proprio un depauperamento anche patrimoniale. Ma 80.000 euro lo vogliamo chiarire, perché è vero che ho letto lei ha è proprietario o comproprietario in alcuni casi di 72 fabbricati e 141 terreni. No, non sono fabbricati, sono diciamo appartamenti. Meglio ancora. No, 70... fabbricati sono più appartamenti, sì, quindi diciamo. Ma 72 appartamenti, ma come, beh, come ha fatto? Ha fatto la formichina, ha messo via... Beh, no, non è solo merito mio, è merito del mio bisnonno, del mio nonno, del mio padre. Il mio compito è quello naturalmente di ricevere e valorizzare. Ricevere e valorizzare. Comunque 80.000 euro ho dovuto pagare, insomma, immagino sia stato un salasso poco piacevole. Sì, però... ma vede, il problema è proprio questo. Se va a finire nel mare magnum delle spese incontrollabili, è un salasso ed è un sacrificio che non va a beneficio degli italiani, e così lo riporti alle varie percentuali anche di chi magari ha la prima casa e arrivare fino a questo livello, e quindi gli italiani io credo che siano disposti a fare un sacrificio, ma se noi dobbiamo abbattere in prima cosa questo debito pubblico che ormai ci attanaglia ed è una spada proprio che non è più di Damocle, diciamo, ci spinge sotto, non ci consente la crescita, non ci consente gli investimenti, non ci consente di fare niente. Ma lei è stato mai tentato di non pagarla? Sai che c'è gente anche del suo partito, per esempio la Santanchè straccia l'F24, non lo so, non la paga. Ma credo che ognuno abbia un ruolo, ognuno magari, ci sono coloro che devono spingersi oltre, il caso della Lega, il caso di alcuni esponenti del mio partito, ma diciamo in un ambito di un partito molto composito ci sono delle componenti che ritengono di svolgere un ruolo in questa maniera. Lei li ha pagati e non ha avuto il minimo dubbio, anche quando è arrivato il conto, quando l'ha chiamata il commercialista, che ha pensato? Lo sapeva già, immagino. Lo sapevo già perché i conti ce li avevamo già fatti, quindi va bene, le tasse bisogna pagarle, non ci sono dubbi su questo fatto, però la problematica è che non credo che sia sostenibile alla lunga una tassazione del genere, anche perché noi paghiamo già a livello di IRPEF delle tassazioni di un livello al di fuori di qualsiasi altro paese europeo, e quindi è chiaro che va tutto nella perdita secca. Sì. Senta, lei in questa intervista ha detto anche: io pago anche, ma se vedo poi che i servizi non ci sono, i treni sono in ritardo, gli aerei. Ma guarda, ho detto forse il più bel complimento che ho avuto quando sono stato sindaco. Una persona anziana, io andavo molto sui cantieri, opere che ho fatto per la mia città. E mi avvicinò e in dialetto mi disse: sindaco, le posso dire una cosa? Le tasse non fa piacere pagarle a nessuno, però vedendo questi risultati le posso dire che le pago volentieri. Vabbè, ma l'aveva pagata questa signora per farle... No, era molto spontaneo, le ripeto, forse è il più bel complimento che ho avuto. Cioè, le tasse si pagano se tutto funziona, ma lei ha avuto mai la tentazione di dire, cioè vuol dire che se non ci sono i servizi adeguati si ha la tentazione di dire io non le pago le tasse? Guardi, noi abbiamo tre realtà per fermarci sulla tre: debito pubblico, costo energetico e stato sociale, ma inteso anche non soltanto per la socialità della povera gente, ma anche la socialità che vengono date contribuzioni a destra e a manca, non controllate, che vanno soltanto a premiare alcuni e a non premiare altri. Ma lei che ne pensa di, non so, di italiani che dicono per pagare l'IMU quest'anno sono finito rosso in banca, non certo, ce l'ho fatta? Ma lei, cioè, pensi quei tanti che hanno... lei che prova, è una colpa essere ricchi? No, perché lei immagino... No, guardi, non mi sento assolutamente questo fatto, anche perché credo che sia una ricchezza intelligente, quindi non chiusa in se stessa, quindi facciamo lavorare persone, diamo collaborazioni, quindi è una cosa diciamo abbastanza avanzata. Certo che se mettono una patrimoniale di cui si discute, lei cosa fa? Sì, ma vede, la patrimoniale sarebbe addirittura più auspicabile, però sempre con quel concetto che una patrimoniale deve andare ad abbattere quelle componenti che ci impediscono di crescere. Se noi invece la patrimoniale la facciamo rientrare nel discorso della spesa pubblica, della spesa non controllata, credo che ci sarebbe un ulteriore depauperamento del livello patrimoniale della nazione. Però, onorevole Di Cagna Brescia, mi faccia fare un attimo i fatti suoi, cioè 72 appartamenti, che fa, li affitta? Li ha avuti in eredità, mi pare di aver capito, dal bisnonno, poi il nonno, il papà, insomma una cosa, un asse ereditario che le è rimasto. In una normale attività credo che fissare degli appartamenti o locarli o casa non sia rientri fra le attività economiche del nostro paese. Certo, no, ma perché, dove ce li ha? A Bari da quelle parti? Sì, a Bari. Sì, sì. 72 e 141 terreni, che ci fa su questi terreni? Ma va bene, i terreni, guardi, non sono innanzitutto 141 perché sono chi ha fatto quelle letture non erano, sono terreni che o vengono coltivati, oliveti, mandorleti, seminativi, o addirittura molti purtroppo sono abbandonati perché non c'è un ritorno economico, quindi si arano soltanto con dei costi. Soltanto con dei costi, insomma, certo che 80, ma poi questo è l'acconto, ma quanto pagherà a fine anno di IMU? Perché adesso bisogna vedere i comuni quanto. Certo. Quindi non è finita. Il suo amico Emiliano, anche se fa parte di un altro partito, il suo successore, diciamo, a sindaco, li metterà una bella. Deve stare molto attento perché gli metterà una bella tassa, lei, una bella addizionale. In città c'è uno scontento generale su questo fatto, che poi sfocia nell'antipolitica, che quindi anche i comuni credo che devono stare attenti a fare cassa soltanto con questa tassa. Comunque lei ha votato no all'IMU, diciamo. Fiducia sì, ma l'IMU non le piace, e te credo. Ma non è solo un fatto personale. No, vabbè, insomma, però magari anche un po'. Perché il mio mandato non è un mandato personale, è un mandato nell'interesse degli elettori, dei cittadini. In ogni caso, buon viaggio, sta partendo. Sì, stiamo muovendo. Vi state muovendo, spenga il cellulare, che è questione di sicurezza. Va bene, grazie all'onorevole Simeone Di Cagno a Brescia, del Popolo della Libertà, ex sindaco di Bari, che ha circa 72 appartamenti e 140 più o meno terreni, insomma, ha pagato, quanto ci aveva detto che aveva pagato Brunetta di acconto, 4.000 euro. L'onorevole Simeone Di Cagno a Brescia, 80.000 euro di acconto IMU, acconto, 80.000 euro. D'altronde uno ha le proprietà e poi paga su quello. Allora, dopo la pubblicità del meteo, parleremo di politica. È il Consiglio europeo che incombe il 28-29 giugno. Un Mario Monti ieri è andato al Quirinale, secondo Repubblica ha ottenuto le rassicurazioni, Napolitano non appoggerà mai l'idea di elezioni anticipate, ma in realtà è un Mario Monti, secondo alcuni, debole politicamente, e quindi è un Mario Monti che si presenta in Europa non appoggiato più soprattutto da alcuni cosiddetti falchi del Popolo della Libertà, che vorrebbero staccare il sostegno, finire col sostegno politico a Mario Monti. È tempo scaduto? Di questo parliamo politicamente, ovviamente, per Mario Monti e per il suo governo. 800 24 00 24 per il vostro contributo in diretta, tra poco. Eccoci allora alle 8:33 minuti. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Parliamo di sostegno politico e del premier Mario Monti, che si avvicina all'appuntamento cruciale, il Consiglio europeo di Bruxelles il 28-29 giugno, e secondo alcune indiscrezioni con un sostegno politico che comincia a diventare sempre meno forte. Ieri, racconta Repubblica, il premier è stato ricevuto dal Quirinale e, secondo questo retroscena pubblicato oggi in prima pagina di Repubblica, Napolitano avrebbe assicurato a Mario Monti che si metterebbe di traverso a qualsiasi tentativo di far cadere il governo anticipatamente rispetto alla scadenza naturale della primavera del 2013. Soprattutto, racconta Repubblica, si osservano i malumori, i mal di pancia all'interno del Popolo della Libertà. Saluto l'onorevole Guido Crosetto, a proposito di Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole e benvenuto. Buongiorno. Saluto anche l'onorevole Pina Picerno, buongiorno, del Partito Democratico, ben ritrovata anche a lei. Buongiorno a voi, buongiorno. Senta Crosetto, lei fa parte, giusto per capire, di quelli che vengono definiti falchi all'interno del Popolo della Libertà dai giornali, cioè quelli secondo i quali il tempo potrebbe essere agli sgoccioli per il Premier Monti? No, non posso definirmi falco. Io sono molto critico su alcuni provvedimenti del governo Monti, cioè, non ho una pregiudiziale su Monti, è un'altra cosa. Cioè, non sono uno di quelli che dice Monti deve andare a casa per motivi politici. Critico i provvedimenti, oggi ad esempio quello sul mercato del lavoro, non voterò la fiducia sul provvedimento perché ritengo negativo il provvedimento. Oggi lei non vota la fiducia per esempio sulla riforma del lavoro? Ma no, perché la trovo una riforma del lavoro che in un momento come questo aumenta i contributi, aumenta la burocrazia, le difficoltà nella sussidiarietà. Che mette ancora più vincoli, soprattutto le piccole e medie aziende, secondo me è un suicidio. Già questo però... Cioè, che lo faccia Monti, che lo faccia Berlusconi, che lo faccia Prodi. Beh, ecco, però questo vuol dire, è chiaro che poi la fiducia credo passerà, perché diciamo la maggior parte anche del Popolo della Libertà voteranno... No, la totalità. La totalità voterà la fiducia. Beh no, credo anche Renato Brunetta ha detto. Dopo per scontato che io e nei scorsi giorni l'abbiamo detto, quindi... Però questo voglio dire, la possiamo per questo ascrivere alla categoria falchi del Popolo della Libertà, se non altro è un segnale politico. È chiaro che con il vostro voto non è decisivo, però è un segnale, cioè fosse per voi un provvedimento di fiducia sul quale dovrebbe cadere il governo. Ma sa, non mi penso proprio a Falco, perché Falco sono quelli che dicono no, non voglio Monti, no. Invece la mia non è una giudiziale politica, cioè non è che io dico Monti deve cadere perché non rappresenta la politica, non è stato detto, no, non dico la fiducia su questo provvedimento perché lo ritengo dannoso. Il provvedimento, poi cercheremo di capire tra poco cosa succederà anche all'interno del Popolo della Libertà, perché oggi è una giornata importante nella quale Berlusconi dovrà anche svelare qualcosa, così almeno racconta Libero. Prima però, onorevole Picerno, le piace questo atteggiamento? Nota che Mario Monti all'interno del Parlamento stia godendo di consensi sempre minori e le chiedo, è un momento in cui bisognerebbe invece dargliene di più, proprio che siamo alla vigilia di un Consiglio europeo importante? Esattamente, diciamo, al di là del fatto, diciamo, del piacere o meno, ecco, l'atteggiamento e la definizione che mi sembra più appropriata è quella appunto di responsabilità totale, nel senso che io ho l'impressione spesso quando sento questi commenti da esponenti del PDL di assistere un po', se la ricorda, l'orchestrina del Titanic che continuava a suonare la stessa musica mentre il Titanic rischiava di affondare. Insomma, c'ho più o meno la stessa impressione, nel senso che noi siamo alla vigilia di un appuntamento fondamentale, come lei ricordava, si è aperta una settimana cruciale per il futuro dell'Europa e per il futuro dell'euro, una settimana che peraltro, mi lasci ricordare, non si apre nemmeno sotto i migliori auspici, perché i mercati partono malissimo, sono nervosi, e sicuramente anche perché le parole non bastano solo le parole evidentemente ad assicurare i mercati, specie dopo l'atteggiamento appunto della Germania di ieri, sappiamo tutti, abbiamo letto intransigente, rigorista, certo. Appunto che la Merkel ha usato parole durissime rispetto all'ipotesi della condivisione del debito. Ecco, io mi aspetto che il governo italiano faccia sentire la sua voce in maniera autorevole nel vertice del 28 e del 29 e faccia un po' la voce grossa. Per far questo però è necessario un governo autorevole, forte e riconosciuto. E vediamo se su questo onorevole Crosetto non le sembra di essere un po' parte, almeno non falco, ma parte di quell'orchestrina del Titanic, dice l'onorevole Picerno. Cioè, in questo momento poi cade Monti e che succede? Torniamo sotto il diluvio dello spread a contare quanto sale ogni giorno, ogni singolo minuto? Il discorso è diverso, capisco l'onorevole Picerno, non gli interessi magari fare un discorso serio e fare più polemica politica, gliela lascio. Il discorso è più serio. Il governo ha detto che questo provvedimento lo cambierà nelle prossime settimane. Cioè ha detto, ok, sappiamo che questo provvedimento non va bene, vi chiediamo di approvarlo così e poi lo cambieremo. Ma secondo lei i mercati d'Europa sono stupidi? Quindi secondo lei i mercati d'Europa non hanno letto i giornali, cioè non sanno che anche il governo italiano richiede questo provvedimento da cambiare e accettano il fatto che noi approviamo un titolo? Per carità, se è così va bene. Io però non penso che il compito del Parlamento sia accettare una cosa di questo tipo. Dico, se questo provvedimento non va bene, magari lo cambiavamo prima. Ma però provvedimento o no? Cioè lei capisce che le Camere però non è che approvano provvedimenti. Sì, questo sì. E danno anche sostegno politico, lo tolgono. Sì, ma difatti, ma approvano provvedimenti che il giorno dopo diventano legge e che c'è un artigiano, un commerciante, un giornalista, un operaio che subisce in modo positivo o negativo. Cioè questo è il lavoro delle Camere o del governo. Per cui non si può dimenticarsi che non si può far finta di ok, approviamo questa cosa anche se non va bene, no? Poi la cambiamo. Quindi lei contesta l'idea di dire mi turo il naso in nome del sostegno per mandare un consiglio europeo, un Mario Monti forte, sostenuto. Mario Monti va col doppio va con il 30% dei voti in più di quello con cui va qualunque altro leader europeo. Cioè non c'è nessun altro leader europeo che ha minimamente la maggioranza che Mario Monti. Non raccontiamoci anche delle frottole, cioè gli altri hanno il 52, il 55 e il 56%, Mario Monti ha l'85% del Parlamento. Non esiste, non è mai esistito in Italia, mai esisterà né in Europa un premier con questa percentuale alla Camera Senato. Però scusi, i malumori all'interno del Popolo della Libertà, anche un Berlusconi che sembra dica in qualche occasione aspettiamo il Consiglio Europeo, poi vediamo se sarà in grado di fare la voce grossa e poi forse stacchiamo la spina, per usare questa espressione anche se brutta politicamente. È un qualcosa che di concreto che esiste o sono invenzioni dei giornali? Ma che esista malumore rispetto a alcune cose del governo, questo sugli occhi di tutti, esiste nel Parlamento come esiste nel Paese. Il problema non è però, ripeto, il nome del Presidente del Consiglio, il problema sono le cose che vengono fatte. Questa crisi non è affrontabile a livello italiano, cioè non è che c'è Monti non ce la fa e qualcun altro ce la farebbe, non basterebbe Padre Pio o Giovanni Paolo II o può scomodare qualche tanto più in alto ancora in questo momento. La crisi è al di fuori dei confini. Ho capito che speranza ci dà, no? Una cosetta ci sta dicendo, no, che stiamo andando a catafascio, se neanche Padre Pio. Non le sto dicendo che non è una crisi che può essere affrontata con provvedimenti italiani. Questa è una crisi che va affrontata con scelte, con grandi scelte, grandi difficili scelte europee o scelte mondiali. Cioè, il ruolo della BCE non è una cosa che può decidere l'Italia, ad esempio, no? Su questo sì, onorevole Picerno, c'è anche stato questo gioco a rimpiattino, a dire nei giorni scorsi siete voi che volete andare a votare, voi no, siete voi. No, ce lo dica il Partito Democratico, vuole, c'è questa idea, perché se andate a votare a ottobre i sondaggi vi danno per vincenti, insomma. Sì, ma il Partito Democratico ha anteposto l'interesse dell'Italia e del Paese ai propri, diciamo, interessi personali già da molto tempo. Avremmo potuto andare a votare, diciamo, mesi fa e vincere tranquillamente le elezioni. Non l'abbiamo fatto per il bene dell'Italia. E mi lasci ricordare ancora una volta, perché io rimango basita davvero di fronte alle parole dell'onorevole Crosetto. Mi sembra, e non solo le sue, insomma, cioè mi sembra di osservare il volo di veramente avvoltoi che guardano al vertice europeo, no, con l'interesse di chi, lei utilizzava una brutta espressione, di chi vuole staccare la spina, e a me sembra veramente irresponsabile e pazzesco. Stiamo parlando del futuro di questo paese, del futuro dell'euro e del futuro dell'Europa. Quindi io davvero penso che sia necessaria un'assunzione di responsabilità, al di là, insomma, del merito dei provvedimenti, su cui ovviamente si discute, insomma, anche. Ma che dovrebbe fare? Cioè, che dovrebbe fare l'onorevole Crosetto, votare un provvedimento che secondo lui non va bene? Le spiego, anche il Partito Democratico aveva ed ha delle riserve rispetto, eppure, per esempio, si vota alla riforma del lavoro, ma in questo momento capiamo perfettamente che viene prima l'interesse dell'Italia. Crosetto, evitiamo di fare la fine della Grecia, della Spagna. Guardi, ieri la Spagna ha formalizzato la richiesta di aiuto, come sapete, per le banche spagnole. Cipro chiede aiuto, il contagio si sta allargando. No, ma è chiaro, qua l'idea, onorevole Crosetto, bisogna ingoiare questo calice amaro, questo le sta dicendo politicamente l'onorevole Picerno, cioè, in nome di interessi superiori, altrimenti serve solo Padre Pio, poi, ecco, come visto che l'ha evocato lei. Guardi che io il calice amaro lo invoco tutti i giorni, io ero alla Camera alle 8:30, non eravamo molti a essere alla Camera alle 8:30 ieri, fare tutto il giorno alla Camera, perché un conto è pontificare al mattino, dare lezioni sul taglio 24, un conto è poi lavorare tutti i giorni, quindi il sostegno al lavoro uno lo fa essendo presente alla Camera, cercando di cambiare i provvedimenti. Io non ho detto che aspetto come un falco che Mario Monti fallisca, se l'onorevole Ceno si riascolta dopo quello che ho detto, ho fatto un ragionamento diverso, dico c'è un problema europeo che, e ho detto che lo stesso Monti non può affrontarlo, cioè, perché va al di là dei confini nazionali italiani, purtroppo per noi, e contestualmente ci sono i provvedimenti che ogni giorno approviamo e che si abbattono sull'Italia, che hanno effetti positivi o negativi, quindi bisogna tener conto delle due cose, del momento di difficoltà da una parte, della necessità che abbia una forza europea, e continuo a dire ha la più grande forza che abbia qualunque altro di qualunque altro paese in Europa, quindi ce l'ha già questa, ma non è quello, cioè se voi guardate lo spread che abbiamo avuto, cioè esattamente lo stesso che c'è negli ultimi giorni del governo Berlusconi, quello che portò Berlusconi a un gesto di responsabilità enorme, quello di, nonostante avesse la maggioranza, di dimettersi, come dice l'onorevole Picerno, per il bene dell'Italia. Ci sono state tre manovre, ci sono stati 150 miliardi della Banca Centrale Europea, nonostante quello lo spread a quel livello, perché il tema è al di là dei nostri confini, è al di là della potenzialità del governo italiano. Non mi interessa andare alle elezioni, però non si può neanche dire va tutto bene. No, ma anche perché voglio dire, se uno poi va alle elezioni che succede? Cioè non è che appunto se cade Monti affidiamo il governo, la nostra sovranità a Bruxelles e ci risolvono i problemi loro. Bisognerebbe andare ad altre elezioni, formare un nuovo governo e al limite tra tre mesi siamo a rifare lo stesso discorso. Poi con quello che si sente anche sui sondaggi forse c'è da stare ancora più preoccupati. Il traffico e rientriamo. Eccoci allora, vorrei sentire Franco da Bari che ci ha chiamato l'800240024, il sostegno politico a Monti. Franco, buongiorno. Buongiorno, buona giornata a tutti. Complimenti a lei per la trasmissione. Volevo soltanto dire che qua parlo e credo vorrei parlare a nome della maggioranza degli italiani. Chi sta avendo troppa pazienza? Siamo noi verso chi sta appoggiando il governo, penso di UPDL, UDC e PD, perché loro ci hanno portato a queste condizioni e loro non dovrebbero assolutamente attaccare, staccare, ma cosa devono fare loro? Loro devono non dovrebbero nemmeno stare là. Loro hanno fallito. Di solito chi fallisce deve mettersi al lato, non deve stare più là. Quindi che dovrebbero fare? Hanno fallito, niente, loro non dovrebbero nemmeno parlare. Non dovrebbero nemmeno... Però, sì, assolutamente. Voglio dire, Franco, i voti... Io ho votato il PDL, non lo voterò più. Non voterò nemmeno Berlusconi, perché ci ha preso in giro. Probabilmente sono responsabile anche... Franco, mi scusi, le chiedo questo. Cioè, non dovrebbero neanche parlare, ma l'appoggio politico in Parlamento c'è o non c'è a Mario Monti? Cioè, nel senso, che dovrebbero fare i partiti? Chiudiamo il Parlamento? Che dobbiamo fare? Monti dovrebbe andare avanti per la sua strada, dovrebbe fare le sue cose, basta, senza essere contrastato. Altrimenti loro il giorno dopo che stanno ancora là, a Roma, voglio dire, loro questi partiti, no? Continueranno di nuovo. Ma che facciamo? Scusi, glielo richiedo. Prego, prego. Chiudiamo il Parlamento? Cioè cosa magari facciamo? Magari si potesse. No, magari. Cioè, mandare via questi, loro hanno fallito. Chi fallisce? Ho capito, ma cosa facciamo? Guardi che l'abbiamo fatto in passato, non è andata benissimo, di chiudere il Parlamento, comunque, insomma, di non considerarlo molto molto importante. Comunque, grazie Franco. Vorrei andare a Lucca da Alfio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io ho chiamato la seconda volta che l'onorevole Crosetto ha ripetuto che la soluzione della crisi non dipende dall'Italia ma viene dall'estero. Siamo pazzi. Dall'Europa. Cioè dico un attimo, la crisi ovviamente è internazionale, c'è per tutti, ma l'Italia ci sta dentro a livello della Grecia, non a livello della Francia, della Germania o di altri paesi, insomma, quindi i problemi nostri sono nostri. Speriamo non proprio della Grecia, diciamo in mezzo, speriamo non proprio a livello della Grecia. Lei vede davvero una così grande differenza? Beh, per il momento sì. Ma la Germania adesso ci dà a noi, supponiamo, ci regala 400 miliardi di euro. Bene, noi fra 6 mesi siamo da capo, perché non ci facciamo niente, come abbiamo fatto con l'euro, col beneficio dell'euro l'abbiamo. Ma perché lei ride? Perché lei ride? Perché le fa ridere il fatto che Crosetto dica che è un problema extranazionale? Scusi, è un rappresentante del popolo italiano che sta lì, cioè l'abbiamo eletto noi una bestia del genere, cioè che deve stare a fare il suo lavoro da un'altra parte. Bestia intendo dal punto di vista della competenza politica, Vabbè, vendendo fumo è cretino del tutto. Oh, ma adesso non insulti anche adesso. No, vabbè, cretino. Insulto, beh, insomma, faccia lei, onorevole Crosetto, vabbè, bestia, non lo so. Non ho sentito nulla della telefonata del secondo. No, ha detto che è sconvolto dal fatto che lei dica che è un problema extranazionale, visto che lei è stato eletto e dovrebbe lei risolvere come gli altri rappresentanti i problemi. Invece ride Alfio del fatto che lei dica che vabbè, tralasciamo poi, l'ha definita una bestia politicamente, insomma, una bestia per la mancanza di competenza politica. Vabbè, questo è il giudizio di Alfio. Posso rispondere a Alfio? Sì. No, vabbè, non ho sentito, perché non si sentiva la telefonata di Alfio, ho sentito quella prima. Il problema è extranazionale, perché mi pare che il problema dei mercati in questo momento sia un problema che va al di là dei confini delle nazioni. Cioè, il problema del giudizio dei mercati sul debito pubblico, il problema della difficoltà di difesa dell'euro non dipende dall'Italia, cioè dipende ad esempio dal fatto che la Banca Centrale Europea ha un ruolo diverso da quella americana o quella giapponese, cioè, ma non è una cretinata dell'onorevole Crosetto di martedì mattina, è l'analisi che fanno tutti gli economisti del mondo, cioè non è un'invenzione mia e non è una mancanza di responsabilità. Ma allora forse deve stare a dire chiudiamo il Parlamento davvero, no, come diceva il primo ascoltatore. Sono due cose diverse, cioè il problema è Italia, che è un problema tipicamente italiano che va affrontato con le riforme. E poi c'è un problema di quello che sta succedendo nel mondo adesso, che se noi diciamo che dipende dall'Italia, raccontiamo delle frottole, sì, in questo caso saremmo dei cretini, perché se noi pensassimo che alcune riforme in Italia possano affrontare o risolvere il problema che stiamo vivendo, che è internazionale in questo momento, diremmo una stupidaggine. Per cui c'è un lavoro da fare per l'Italia, che è quello delle riforme. Sì. E c'è un lavoro da fare in Europa o nel G20, che è quello che sta cercando Monti. Difatti, il fatto che Monti voglia andare in Europa con più forza deriva dal fatto che il problema si risolve, si affronta, si può iniziare a affrontare a livello europeo, altrimenti non si muoverebbe da Roma. No, secondo punto, sì. Scusi, anche il primo telespettatore, una risposta. C'è un giudizio negativo generalizzato sui partiti e sul Parlamento, questo sì. Io do solo un dato, per carità, io ho poco più di 40 anni, il debito pubblico italiano adesso è lo stesso del 94, per quanto pessima, io non ho partecipato agli ultimi 20 anni, ho partecipato agli ultimi anni, ma per quanto pessima la classe politica negli ultimi non ha fatto anni, peggio. Non ha aumentato il debito. Non ha fatto peggio sul debito pubblico. Ha fatto strategie elettorali, chiedo a Pina Picerno, il PD e UDC vi piace? Lo so che insomma si parlerà magari del 2013, ma bisogna già muoversi anche su questo. L'alleanza proposta da Casini, UDC e PD. No, però vorrei dire una cosa all'onorevole Crosetto, che cioè, insomma, mi fa un po' specie che si sia passati dalla negazione della crisi a prescindere, lei si ricorderà l'ottimismo a prescindere, la crisi non esiste, non la risolviamo con il sorriso e con l'ottimismo, al fatalismo a prescindere, per cui secondo, se è vero quello che dice Crosetto, rimane una situazione di ineluttabilità pazzesca e ci rimane insomma soltanto Padre Pio, come dice lui. Io credo che ci sia una via di mezzo, e cioè insomma nel mezzo sta poi la verità. La crisi esisteva già prima, il PDL ha fatto male e il governo Berlusconi ha fatto male a negarla, sicuramente non aiuta l'atteggiamento che ha per esempio Berlusconi, no? Berlusconi 2 giorni fa, vorrei ricordarlo, dice no, dobbiamo uscire dall'euro, insomma stiamo assistendo a un balletto di irresponsabilità, come dicevo prima, pazzesco, che non aiutano. Sicuramente i governi europei, i leader europei possono e devono trovare una via di uscita per questa crisi, e diciamo che la situazione è grave, lo testimonia anche la telefonata del presidente degli Stati Uniti d'America, di Barack Obama, che ieri chiama Monti preoccupato, chiede informazioni sul dibattito italiano rispetto all'euro. Noi abbiamo una responsabilità enorme, dobbiamo recuperare, mi lasci dire, un po' la capacità che hanno avuto i padri fondatori dell'Europa e rilanciare il percorso, il processo di integrazione europea, ripartendo innanzitutto dall'unità politica. Noi abbiamo il dovere di parlare di unione economica, di unione politica e di unione bancaria. Questo, insomma, sono, insomma, l'appello alla responsabilità. Mi faccia dire una cosa a Crosetto, visto che lei è uno che dice pane al vino al vino. Berlusconi si deve, ho 30 secondi, si deve ricandidare o no, secondo lei? Deciderà lui. Io penso che Berlusconi abbia già fatto Presidente del Consiglio, e in questo momento il suo compito sia quello di semmai far crescere far svecchiare un po' la classe dirigente italiana, consentendo un salto generazionale. Voglio solo dire una cosa all'onorevole Picerno: sto parlando con una persona che quando faceva parte del governo ne criticava le manovre economiche, così come fa con Monti. Cioè, non è una questione, io, se si ricorda, alle manovre di Tremonti ho cercato di oppormi, per cui le ritenevo negative, per cui ritengo che il mandato ai cittadini sia quello di dire la verità quando uno pensa che una cosa sia sbagliata, indipendentemente dalla parte. Mi devo fermare qui. 24 mattino.